dicono i cinesi, non mi interessa il colore del gatto, mi interessa che prenda il topo. Il gatto matto vigila sul tetto, il gatto matto guarda tutti con sospetto. Questo è proprio anche il momento dei quarantenni in politica, sembra che si stiano facendo davvero largo con grande energia, abbiamo dei bei modelli, sì, da Tsipras al nostro Renzi, adesso poi uno può piacere o no, però insomma Renzi è un po' panciolino, ce l'ha, sì, Tsipras è più bello, diciamocelo, però mi sembra più in forma. Al nostro preside, l'ho chiamato ormai nostro, dottor Rusconi. Sì. Ecco, mi sono allargata un po', vero? No, ma io non sono importa. Un aficionado di Radio 24, ecco, ormai quindi sono drogato da Radio 24. Vuole entrare qua. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Non ride più, non parla mai, ma questa notte lo ritroverai. Non dire più che non ce l'hai, se te lo perdi che figura ci farai. Abbiamo anche omaggiato il nostro nuovo conduttore di Radio 24, Nicoletta, che dovremmo invitare a Cuore e Denari, eh? Enrico Ruggeri, lo portiamo? Dai. Se sta bravo, sì. Se sta bravo, vediamo, lo invitiamo. Vediamo se fa il bravo. Che allora, non è che qua possono venire tutti, eh? Anche facciamo se una tutti selezione. Vogliono, anche se tutti vogliono e ci tengono molto. Il tema di oggi, nuovo usato, il grande dilemma, Nicoletta, che può valere per tante cose nella vita, anche per gli uomini. Anche per nella ricerca del compagno, nuovo usato o ristrutturato? Noi dico oggi di più. Con qualche ritocchino. Che puntata in salita che sarà, già me lo immagino. Ci concentriamo su un aspetto molto caro in realtà ai nostri ascoltatori. È spesso oggetto delle pagine di denari l'acquisto della casa. È meglio comprare del nuovo o dell'usato? Iniziamo subito chiedendolo ai nostri ascoltatori. Allora rispondeteci all'800 24 00 24. Se siete proprietari di una casa, magari state pagando il mutuo, se questa casa l'avete scelta in un palazzo nuovo oppure in uno stabile che ha già qualche anno, se è stata una scelta precisa oppure eravate aperti ad entrambe le opzioni, quale ha vinto? Noi oggi cercheremo di capire quale di queste due strade convenga in questo momento di mercato, naturalmente a seconda di tante variabili che si mettono in gioco. Chiamateci quindi, soprattutto se siete in questo momento alla ricerca della casa dei sogni, raccontateci come sta andando, che prezzi state trovando, condividete con noi i vostri dubbi, sappiamo che è un passo importante e che per questa volta mette non poche preoccupazioni addosso, fa sentire un po' sotto pressione, e anche per questo motivo noi oggi vogliamo accompagnarvi. E sì, Deborah, per la parte di cuore ci occupiamo di cuore, in modo particolare di un fattore di rischio che può minacciare la salute dell'apparato cardiovascolare e della salute in generale. Parliamo di ipertensione. Il 30-35% degli italiani ha la pressione alta, spesso senza neanche saperlo, proprio perché, come abbiamo detto più volte, l'ipertensione non dà sintomi chiari. Per questo sarebbe bene ogni tanto in farmacia, dal medico o a casa propria, controllare i valori. Fatelo, mi raccomando, anche se siete giovani, anche se state bene, ma fatelo in modo particolare se avete mal di testa, specie al mattino, se vi sentite un po' storditi, se avvertite ronzio alle orecchie, se qualche volta la vostra vista si annebbia e se perdete il sangue dal naso. 800 24 00 24, prenotate i vostri interventi e diteci, se siete ipertesi, come lo avete scoperto. Eccoci nella nostra regge. Allora, grande disimpegno da modificare come meglio crede. Questa parete può andare giù benissimo. Questo era un vecchio cesso, un vecchio bagno. Qua la finestra si può chiudere e fare un grande lucernario da sopra con una bella luce che scende giù, e poi la vasca se la sposta come gli pare. E adesso sa dove entriamo? Entriamo nel punto di diamante della casa, il salotto. Senta, ma non è un po' troppo piccolo? Marcè, stammi a sentire. Tu questa casa non la capirai mai se la vedi così com'è. Tu te la devi immaginare per come sarà. Hai capito? Immaginare per come sarà. Vuoi che te spiego come la vedo io? Eh? Ecco, forse questo Carlo Verdone in versione agente immobiliare non è che fosse tanto convincente. C'è da dire che convincersi che una casa è giusta per noi non è sempre facile. Bisogna avere anche la capacità, come diceva lui, di guardarla in prospettiva. Una volta che ci hai rimesso le mani, che ti sei così un po' che l'hai visualizzata nelle sue modifiche, naturalmente è più facile, ma non è facile per tutti. A volte è un amore a prima vista, a volte la ricerca è molto lunga e a volte la scelta è anche molto tormentata. Oggi pensiamo anche ai criteri che ci possono aiutare. Uno su tutti è decidere se cercare la nostra casa in un immobile nuovo oppure no. Di questo si occupa anche Casa Plus 24 nella copertina del numero di domani, Paola Dezza. Sole 24 ore, è così? Sì, abbiamo scelto di fare appunto una copertina che analizzasse un po' i pro e i contro dell'acquisto di un'abitazione già esistente, quindi in generale da ristrutturare, di un'abitazione invece nuova, visti i cantieri che stanno arrivando sul mercato anche con un timing sbagliato, perché spesso appunto molti di questi cantieri sono partiti quando la crisi immobiliare non c'era ancora e sono arrivati sul mercato oggi, che la situazione è cambiata completamente. Infatti. E allora le analisi di Casa Plus 24 sono tante, quelle che domani troverete sul Sole 24 ore, c'è anche quella di casa.it, l'ha elaborata Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di questo osservatorio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Allora, adesso fra un po' la prima domanda anche per lei, ma intanto una nuova convocazione per i nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Aspettiamo i vostri interventi, anche le vostre domande. Speriamo di potervi dare qualche guida, qualche piccolo orientamento. State cercando casa, l'avete comprata da poco, avete scelto nuovo, usato o non vi siete ancora decisi? Utilizzate anche naturalmente l'SMS al 349-238-6666 per evidentemente messaggi più articolati. Utilizzate se volete Facebook, Twitter o anche la vostra, il nostro indirizzo di posta, che è cuoredenari@radio24.it. Ho detto tutto. Paola, ritorno da te. Proviamo a dare un quadro generale della situazione del mercato immobiliare. Abbiamo una ripresa delle compravendite, giusto? Mi pare che un po' tutti siano d'accordo su questo, le cifre lo dicono. Sì, guardiamo solo il residenziale, nel terzo trimestre del 2014 le compravendite in Italia in media sono salite del 4%, sono salite molto di più nelle 8 grandi città, quindi questo fa ben sperare, perché dopo più di 6 anni di crisi del mercato e di discesa dei prezzi, che non è stato un crollo ma una discesa continua, sì. Quindi oggi siamo a un meno 30% sicuramente rispetto al primo semestre del 2008, c'è una ripresa delle compravendite. I prezzi comunque continueranno a scendere anche quest'anno, secondo i principali osservatori, tra cui Nomis, ma solo nel 2016 si vedrà la stabilizzazione, quindi nemmeno una ripresa dei prezzi, però le compravendite danno dei segnali di ripresa. Ci sono città in particolare come Milano dove da 5-3 trimestri consecutivi le compravendite salgono e salgono anche con punte del 10% in alcuni trimestri. Sarà in parte forse anche il fatto che stiamo aspettando l'Expo, quindi siamo diciamo al centro di una vetrina internazionale in questo momento. Alcune agenzie di lusso mi dicono che ricevono delle richieste per vedere degli appartamenti, cioè, dall'estero. Cioè c'è addirittura perché... chi vuole comprare casa per fermarsi qua, anche se solo temporaneamente, in occasione di Expo 2015? No, più che altro diciamo che essendo l'Expo una vetrina internazionale, Milano è entrata nei riflettori, nei radar degli investitori anche privati, e quindi hanno rivalutato forse la città come investimento. Saranno poche queste richieste, immagino, però sono dei piccoli segnali interessanti. Tra l'altro delle guide hanno inserito Milano tra le 3 principali mete da visitare nel 2015, quindi diciamo che c'è un'attenzione molto forte sulla città. Parlavamo prima a microfoni spenti anche della grande risonanza che si è guadagnato il Bosco Verticale, no? Questo palazzo qui nella zona di Piazza Gae Aulenti, costruito dall'architetto Boeri, se non mi ricordo male, che ha tutte le sue particolarità, effettivamente poi può piacere o no, ma è stato indicato come il più bel palazzo del mondo in questo momento. In questo momento si è vinto dei premi, e anche il grattacielo di Unicredit ha vinto dei premi, è stato nella classifica dei 10 diciamo grattacieli più belli del mondo. Unicredit Tower, c'è attenzione in questo complesso, chiamiamolo complesso perché tutti e due fanno parte della stessa zona, queste costruzioni, finalmente qualcosa di moderno che è arrivato in città e ci voleva dopo tanti anni. Alessandro Ghisolfi, dal moderno andiamo invece al tradizionale, alla scelta che può in questo momento attanagliare molte famiglie che magari hanno un pochino di liquidità per potersi permettere di comprare una casa, magari grazie ai mutui che sono ben convenienti in questo momento. Qualche banca ha detto sì, adesso il tema è scegliere nuovo o usato. L'offerta in questo momento dove è particolarmente concentrata secondo gli studi di casa.it? Beh, diciamo che l'offerta sicuramente è molto più alta per quanto riguarda l'usato, e per usato intendiamo, mettiamoci dentro, cioè le abitazioni, gli appartamenti che hanno almeno 25 anni di età, poi si va ben oltre, per cui mettiamoci dentro anche gli appartamenti quindi totalmente da ristrutturare, quindi molto più vecchi. L'offerta è molto più alta, nel senso che per darvi un'idea, parliamo di Milano, visto che siamo a Milano, noi sul nostro portale abbiamo oltre 27.000 abitazioni in questo momento in offerta sul mercato. Di queste 27.000... A Milano? Solo Milano, solo Milano. Mamma mia! Beh, l'altro giorno abbiamo battuto il record del nostro portale di 1 milione di case viste in un solo giorno. Sempre a Milano? No, tutta Italia. Ah, ecco, su tutta Italia. Tutta Italia. Però per dare un po' l'idea dei numeri che... Che muovono. Insomma, c'è fermento. Esatto. È una buona, esatto. Mettiamola che sia una buona notizia. No, ma infatti è una buona notizia, perché poi aumentano molto quelle che noi chiamiamo le richieste specifiche, cioè coloro che cercano una casa, però non fanno una ricerca generica, dicono: sto cercando un appartamento in questa via, piuttosto che in questa zona, di questa metratura, con questo budget, inviano una mail, vogliono poi essere allertati, eccetera, eccetera. E la... Che sarebbe poi il modo corretto per cercare una casa? Sì, è il modo corretto per cercare una casa, perché lasciando i propri dati all'agenzia immobiliare che fa pubblicità sul nostro portale, si vengono contattati direttamente e si fa una ricerca molto più selezionata, mirata, senza perdere, certo, troppo tempo. Allora, di tutta questa massa di offerta che c'è oggi, diciamo che il 70% è comunque riferito appunto ad abitazioni usate o da ristrutturare, ma anche le richieste che arrivano molto spesso, anzi sono in crescita quelle per le abitazioni usate da ristrutturare, perché sul nuovo diciamo che chi cerca ha già le idee molto chiare e quindi è ovvio che non sta cercando, cioè ha già le idee chiare sul taglio, certo, sulla zona, eccetera. Poi magari se ce la facciamo esploriamo anche le zone d'Italia dove si sta costruendo in questo momento. Non so in quante parti d'Italia questo accada, visto che il mercato dell'edilizia, sappiamo bene, il settore industriale maggiormente in crisi, tanto che negli ultimi anni è stato molto aiutato anche dai bonus fiscali per le ristrutturazioni, Paola, e questo naturalmente favorisce lo stock di esistente, che in Italia è molto consistente. Decisamente, perché nel momento in cui uno deve andare a acquistare casa, il vecchio, chiamiamolo vecchio, l'usato rispetto al nuovo, costa in media il 20-30% in meno, o poi tutta una serie di agevolazioni del 50% di detrazione fiscale sulla ristrutturazione, del 65% addirittura per quanto riguarda, esatto, l'efficientamento energetico. Che tutto poi è stato riconfermato quest'anno, ricordiamo, doveva decadere tutto a dicembre, sì, invece con un blitz il governo ha riconfermato tutto questo stock di bonus molto rilevanti. Che infatti quindi alla fine conviene, diciamo, se uno si fa due conti. Certo. Allora, 800 24 00 24, io direi di cominciare subito a sentire i nostri amici. Andrei da Francesca. Cominciamo. Che ci chiama dalla provincia di Modena, a cui diamo il benvenuto. Francesca, eccoci, sì, qui. Buongiorno. Io non sono più giovanissima e sto cercando insieme a mio marito un piccolo alloggio sulla Riviera Ligure, dove metteremo i nostri risparmi e anche una piccola eredità, no? Che proviene da un alloggio che è stato venduto dopo 4 anni di attesa al 50%. Ora io trovo però che in Liguria i prezzi, specialmente dell'usato, siano ancora molto alti, perché poi se ci mettiamo sopra la ristrutturazione veniamo a pagarlo quanto il nuovo. E non so se ne vale la pena, ecco, anche perché avendo una certa età forse non riusciremo più a diciamo così, a recuperare questa ristrutturazione. Ammortizzare, cioè, no? Sì, certo, perché poi in 10 anni... No, Francesca, intanto speriamo questo sì. Non lo ipotizziamo neanche. La sua voce sembra molto giovanile, oltre che gradevole. Però, insomma, Francesca, giustamente, in maniera molto oggettiva... Fa i conti. Ha considerato tutti gli aspetti. E mentre Francesca commentava i prezzi della Riviera Ligure, a bassa voce Paola Dezza mi diceva: è vero, i prezzi sono ancora notevoli. Ma ci sono delle zone in cui i prezzi hanno tenuto, perché diciamo è sempre una questione di domanda e offerta. La domanda probabilmente per la Liguria è una domanda elevata, quindi è chiaro, certo, che i prezzi non crollano. Lo stesso discorso l'abbiamo rilevato sul lago di Como. Ed evidentemente lì i proprietari di là non hanno bisogno di vendere, perché altrimenti chi ha bisogno di vendere un po' sul prezzo negozia. scende sicuramente, sicuramente. Quindi secondo voi, Alessandro Ghisolfi, la nostra Francesca che cosa può fare? Allora, ammettendo che sia aperta ad altre ipotesi geografiche, ad altre zone di Riviera che le possono risultare più convenienti dal punto di vista economico. Diciamo, il mercato della seconda casa comunque sì, effettivamente ha avuto una crisi molto forte dovuta soprattutto all'aumento delle tasse, per cui tanta gente ha messo in vendita o sta cercando da anni di vendere il proprio appartamento in Liguria. La verità è che bisognerebbe capire quale zona, perché come diceva Paola giustamente, ci sono alcune zone in cui i prezzi effettivamente sono calati tanto, anche più del 20-25%, in altre ovviamente che hanno tenuto di più, penso soprattutto alla Riviera di Levante, il Golfo del Tiguglio, tutta quella zona, le Cinque Terre eccetera, lì i prezzi sono scesi del 10%, del 12%, non di più. Ora, non è sbagliato il ragionamento di Francesca di dire comunque andare a prendere una casa che magari non è a un prezzo che non è sceso così tanto, doverla ristrutturare tutto quanto, a questo punto me ne compro una nuova, perché comunque qualche iniziativa di nuovo si è stata fatta anche in Liguria. Se non va bene la Liguria può andare bene la costa toscana, dove l'offerta è ancora più alta e lì effettivamente forse i prezzi, anzi senza il forse, i prezzi sono un po' più bassi. Quindi che, come dire, le oppure va a Genova e poi si sposta. Va a Genova e poi ad di abitare, lì si... e poi si sposta un po', certo, nel Levante e un po' nel Ponente. Ma sì, insomma, magari ecco, la nostra amica Francesca ha bisogno di prendersi un pochino più di tempo, forse per fare una ricerca in altre aree. Effettivamente sì, considererei la Toscana, perché non deve fare molta strada in più rispetto a quella già. Sì, che non me ne vogliono i Liguri, però no, vabbè. Vedi come sono stata io più diplomatica. Ho detto vada a Genova, che così la Liguria la salviamo. No, sto scherzando, perché io sono abbastanza metropolitana, mi piace fare dei blitz, ma poi no, ma infatti aggiornare. Dipende poi, esatto, soprattutto dalla... a una certa età penso che la città ti dia più stimoli e più protezioni, ma ci sono cittadine bellissime come Chiavari, per esempio, una cittadina stupenda, i prezzi non sono elevatissimi. Ecco, vedi, abbiamo già individuato per la nostra amica, certo, non so, mi viene in mente Chiavari come Arenzano dall'altra parte. Io invece la Liguria non la conosco bene e devo evidentemente documentarmi, essendo più una da Adriatico, perché essendo marchigiana non faccio che parlare di quelle zone. Andiamo a sentire invece Rosario da Parma, che tipo di esigenze ha. Rosario, benvenuto. Buongiorno. Dunque, l'esigenza nostra è quella di comprare casa. Però noi siamo completamente al buio, nel senso che è un mondo un po' a noi sconosciuto. Allora la nostra esigenza è quella di consultare un ente o qualche organo preposto per non prendere la classica fregatura. Per cui noi avremmo bisogno prevalentemente di una sorta di vademecum per venire a conoscenza di tutto ciò che si deve sapere per non incorrere, certo, appunto. Allora, intanto Rosario, guardi, facciamo una cosa, che noi apriamo la nostra libreria, adesso facciamo prendere nota dei suoi dati i nostri ragazzi e... Se Nicoletta è d'accordo, io regalerei un libro, abbiamo tante pubblicazioni specializzate. Però Rosario, una domanda che la voglio fare, avete bisogno del mutuo o avete tutta la liquidità per fare questo acquisto? No, assolutamente, noi abbiamo bisogno del mutuo, per cui... Primo suggerimento che io do sempre, non so se i miei esperti questa mattina sono d'accordo, intanto valutare quanto la banca è disposta a darti e poi dai soldi disponibili andare a scegliere la casa, non fare mai il percorso inverso. Ghisolfi, che ne pensa? Sì, e soprattutto guardare che poi l'importo della rata non vada a incidere per più di un terzo, certo, su quelle che sono le mie entrate mensili. Però magari, siccome molte persone, ipotizzando che adesso il mercato del credito è un po' più flessibile, più disponibile, le banche sono disposte ad erogarti, certo, quello che tu chiedi, allora magari si firma, prima di fare la chiacchierata con la banca, il compromesso con un'agenzia immobiliare, per un'abitazione che, ne so, dico a caso, vale 200.000 euro, poi la banca, pensando che la banca te ne dà 150, la banca ti dice no, io più di 80.000 non ti do, e tu ti trovi con un mezzo contratto firmato e ti metti in un mare di guai. Ho sintetizzato molto, ma così almeno molto rimane bene in testa. Paola, che dici? Sono assolutamente d'accordo. Poi valutare anche il mutuo, perché adesso chiaramente uno è portato a fare un variabile perché i tassi sono talmente bassi, anche per il fisso sono bassi, però valutare bene, perché poi nel tempo, nel momento in cui un domani i tassi riprenderanno, la rata schizza in un attimo. Quindi non vi fate un po' turlupinare da chi dice sì, adesso sono molto bassi, più in basso di così, più in basso di così non possono andare, per cui si parte con un grande vantaggio, ma nel giro di 2 anni e mezzo, 2-3 anni ricominceranno a salire, quando siamo ancora nel pieno del pagamento degli interessi. Però ecco, la prima cosa da fare, Rosario, vada a vedere quanto è disposta a darle la banca. E la seconda cosa da fare è andare a sentire che cosa sta succedendo sui mercati. Va bene. Magari. Cuore e denari. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Sono in una morte. Soffrite lo stress, siete stanchi, fuori forma, ma se non, anche se non dormite bene, se vivete o lavorate in un ambiente rumoroso, c'è un messaggio per voi. Misuratevi la pressione, se fuori norma parlatene con il vostro medico. Nel frattempo però restate con noi, ci raggiungerà tra poco il professor Claudio Borghi, che è presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Via, vado via. Ricordi e immagini. Traslocare è sicuramente un momento intenso, bello, malinconico, al tempo stesso faticoso, con tutti quegli scatoloni. Tante canzoni come questa di Omar Pedrini lo raccontano, ma la soddisfazione naturalmente è maggiore se il trasloco è quello giusto, quello che ci porta nella casa dei nostri sogni, che dopo tante fatiche riusciamo anche, ecco che mi va via la voce, ad acquistare. Grazie, che mi aiuti. Ma la acquistiamo nel nuovo o negli immobili già esistenti? Voi vi siete già dati una risposta? Avete vissuto questo importante trasloco? Ne siete stati contenti? Rimpiangete qualcosa? E se ancora state cercando, condividete i vostri dubbi con noi, naturalmente fatelo anche con i nostri ospiti. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, potete intervenire in diretta, ma anche scriverci messaggi, seguirci con Facebook e Twitter. Paola Dezza del Sole 24 Ore con noi, abbiamo anticipato la storia di copertina di Casa 24, di Casa Plus 24 di domani, e Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di casa.it. Stiamo anche monitorando prezzi, zone. Su Parma, che abbiamo lanciato prima, abbiamo qualcosa da dire di interessante per orientare anche il nostro ascoltatore che ci raccontava brancolo nel buio, non so neanche da dove cominciare. Cominciamo dai prezzi. Naturalmente anche a Parma, come in tutte le comuni capoluogo, i prezzi sono scesi negli ultimi 4-5 anni, anche in maniera piuttosto pesante, nel senso che mediamente la discesa è stata intorno al 18%. Si era costruito parecchio negli anni passati, per cui c'è un'offerta di nuovo oggi a dei prezzi interessanti, anche sotto i 2.000 euro al metro quadrato, ovviamente nelle zone non del centro storico della città, dove invece i prezzi oggi comunque sono sempre intorno ai 4.000-4.500 euro al metro, e hanno quindi tenuto un pochino di più. Nei momenti di boom, parliamo del 2005-2006, avevano anche raggiunto i 6.000-6.500 euro al metro. Eh sì, le quotazioni erano un po' euforiche, non con tanta ragione in molte città d'Italia. Devo dire che questa crisi, forse un po' per il nostro paese, è stata anche salutare per certe zone, no Paola? Tutto sommato oggi possiamo dirlo? Sì, sicuramente, perché c'erano prezzi anche a livelli veramente inarrivabili. Mm-hmm. Bisogna dire che il pregio comunque ha tenuto meglio rispetto al resto del mercato, quindi sostanzialmente gli immobili di pregio hanno visto quotazioni in discesa, però in misura minore. Certo. Quindi... Allora, prima che Paola Dezza ci lasci, fra un minuto la dobbiamo salutare, volevo farle sentire magari la domanda di Alessandro. Ben volentieri. Alessandro ci chiama dalla provincia di Milano, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un'informazione, io sono passato dalla barricata opposta, prima da qui, persona che ha acquistato casa e adesso che deve vendere casa, perché ho ereditato tramite mia nonna un rustico con un appartamentino annesso, sempre in un contesto di corte, in centro Brianza. E diciamo, proprio non può tenerlo Alessandro, lo deve proprio vendere. Perché più che altro non ci vorrei mai andare ad abitare. Capisco. Cioè, il contesto sono delle vecchie cascine, non, per un trentenne come me non è proprio il massimo, secondo me. Poi non mi piace a me. No, ma Alessandro, guardi, per carità del cielo, ognuno fa assolutamente le scelte che sono più adeguate alle proprie necessità. E quindi, insomma, lei dice che prezzi posso spuntare? Non so. Ecco, che prezzi posso spuntare, soprattutto siccome ho ricevuto un'offerta avendolo in vendita una certa cifra è ribassato a meno del 30% nell'arco di 2 giorni, avendolo messo in vendita 2 giorni fa. È meglio subito accettare, temporeggiare, cioè non so come si evolverà il mercato, ecco. Alessandro, beh, allora certamente se non si ha proprio fretta, temporeggiare fa parte, come dire, della strategia di base della negoziazione, Alessandro Ghisolfi. Sì, sono perfettamente d'accordo, soprattutto direi che è interessante il fatto che l'ha appena messo sul mercato e ha ricevuto immediatamente un'offerta d'acquisto. Quello è un segnale interessante, Paola. Sicuramente. Poi magari aspettare un attimo, perché il 30% non è poco, quindi se io lo metto in vendita oggi e domani mi offrono 30% in meno, magari rifletterci un attimo. Certo. Il mercato chiaramente in quelle zone non credo che si riprenderà a breve, poi parliamo di un rustico, quindi insomma una situazione anche particolare, che però molte persone con famiglia stanno anche rivalutando, invece che vivere a Milano cercano delle soluzioni magari fuori con il verde, quindi so anche amici che hanno cercato questo tipo di soluzioni, quindi non è, diciamo, così difficile forse trovare un acquirente. Quindi insomma un'offertona con un prezzo ribassato del 30%, magari aspettiamo un attimo. Rilancerei col prezzo abbassato del 10, del 15 al massimo. E se poi il probabile acquirente sparisce, evidentemente stava tentando di fare un affare, non era esattamente interessante, altrimenti lì si apre un po' di battaglia. Oggi è così, nel senso che l'acquirente si sente molto forte, con il coltello dalla parte del manico, per cui parte immediatamente facendo un'offerta molto bassa, a volte, come dicono alcuni professionisti, offensiva. Allora, intanto salutiamo Paola Dezza che deve lasciarci, ma la ritroveremo al più presto con un'altra. Grazie per l'ospitalità, è sempre un piacere venire da voi. Interessante. Grazie. Puntata sul mattone, perché piace moltissimo ai nostri amici che ci seguono da casa. Mattone Mon Amour. È vero, stavo pensando anche pensa. Le facciamo il titolone apposito, mi piacerebbe, guarda com'è contenta. Ma volentieri. No, stavo pensando anche un po' a questo nuovo, no, del quale parliamo tanto, Alessandro Ghisolfi, e ci stavamo un po' anche sorridendo a microfoni spenti sulla qualità degli immobili nel settore del nuovo che troviamo un po' in giro per l'Italia. Le case sono certamente un po' meno spaziose, i soffitti sono bassi, le stanze sono un po' anguste, però non sono più neanche quelle case di una volta, con questi lunghissimi corridoi che aprivano su tante stanze. Adesso, come dire, c'è un po' il concetto del living, del soggiorno. Che caratteristiche hanno le abitazioni nuove, almeno quelle che sono più ricercate nel vostro portale, quali sono? Beh, sono soprattutto appunto le iniziative di cantiere, diciamo di livello, chiamiamolo, medio alto, quindi con grandissima attenzione al risparmio energetico, quindi l'uso di materiali fonoassorbenti piuttosto che appunto le luci fatte in una certa maniera, cioè tutte particolarità che fanno sì che il risparmio sia effettivo, tanto che sono tutte certificate o in classe A o in classe B, ma non di meno. Poi dipende sempre un po' de gustibus, nel senso che è chiaro che a tanti piace invece andare a abitare nella vecchia casa d'epoca, pur sapendo che poi bisogna collarsi tutta una serie di spese di ristrutturazione, ma come dicevamo prima, grazie ai bonus fiscali stiamo vedendo che infatti negli ultimi 5 anni sono cresciuti gli investimenti in ristrutturazione eccetera di oltre il 40% in Italia, mentre gli investimenti in costruzioni residenziali nuove sono scesi del 60%, quindi significa che comunque l'attenzione all'acquisto della casa vecchia piace sempre. Poi è ovvio, parlavamo per esempio anche della domanda estera che arriva su Milano. Effettivamente io ho parlato anche con chi appunto vende le abitazioni nei nuovi grandi progetti di Porta Nuova e City Life, e mi dicevano che gli acquirenti esteri arrivano e ovviamente non vanno a cercare la casa d'epoca, anche magari in Corso Magenta a Milano, cioè in pieno centro, da ristrutturare. Puntano immediatamente su quella tipologia. Chiavi in mano quasi. Sì, chiavi in mano, e che poi secondo me gli ricorda un po' anche la tipologia che magari dell'appartamento che hanno a New York piuttosto che a Londra. Insomma, avremo un anno interessante, ci fa piacere almeno da questo punto di vista, che questo Expo, con tutto quel gran lavoro che c'è dietro, anche in termini proprio di significato del messaggio che vuole portare, che porti anche tutto questo. Riusciamo a prendere una domanda? Chi prendiamo? A parte, volevo dirti che Serena mi ha invitato ad andare, sì, in Liguria, e se tu fai la brava io ti porto anche a fare, dai, un giretto. Dai. In primavera andiamo a trovare Serena che ci invita su Twitter. Grazie Serena. Allora, Ilario? Ilario, velocissimo, grazie. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, siete bravissime. Ci dica volevo sapere, qui su Firenze, per acquistare una nuda proprietà. Ilario, grazie. Allora, il concetto della nuda proprietà richiederebbe una puntata a sé, perché è molto interessante, però insomma parliamo qua di acquistare un'abitazione occupata, evidentemente, sì, che lì rimane la persona che sta lì, generalmente una persona anziana che, sì, vuole incassare un po' di liquidità, ma che naturalmente mantiene il diritto di abitarvi fino a quando ne, esatto, ha bisogno. Esatto. È un istituto, come dire, conveniente? Conveniente sicuramente se appunto chi compra non ha necessità, urgenza di andare ad abitarci. Devo dire che, stando ai dati dell'Agenzia delle Entrate che misura anche le compravendite di nuda proprietà, negli ultimi anni, sarà per la crisi, le compravendite sono sempre calate molto, e è comunque veramente una percentuale piuttosto bassa quella degli acquisti di chi compra in nuda proprietà in Italia. Sarà un, certo, significato culturale, non lo so, però ripeto, può essere molto interessante, perché da un certo punto di vista si spuntano dei prezzi interessanti, però poi bisogna magari avere pazienza, magari sei per la casa di un figlio, no, esatto, e non l'hai subito bisogno, brava, no? E non puoi pensare appunto che entro un anno o due quella casa sarà nelle tue disponibilità, perché è giustamente, tra virgolette, passatemi il termine infelice, un po' un terno all'otto. Direi che sulla casa abbiamo terminato, Nicoletta, però insomma teniamo sotto controllo la pressione per chi si appresta a fare questa operazione di acquisto. Ne parleremo subito dopo le informazioni sul traffico. Lei l'ha misurata la pressione? Bah, forse una settimana fa. Bravo. Ah. Com'era? 70-110. Ma anche era un po' bassina Ghisolfi, qua. 70-110, tra poco ci sarà il nostro professor Borghi, daremo anche i suoi numeri e le faremo sapere. Aiuto. Ma grazie, secondo Ghisolfi, me va benissimo. Buona giornata, grazie, e buon lavoro con anche casa. A voi, grazie buona mille. Giornata. Cuore e denari. Mal di testa, batticuore, bruciore agli occhi, capogiri, battiti irregolare, stanchezza inspiegabile, ne sapete qualcosa? Allora restate con noi, iniziate a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. È tornato a trovarci il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e grazie sempre dell'invito. Noi abbiamo aperto, professore, con una serie di segnali che potrebbero essere spia di un'alterazione dei valori della nostra pressione, ma all'elenco ne potremmo aggiungere molti altri che all'apparenza con la pressione sembrano non avere nulla a che fare, perché spesso i sintomi dell'ipertensione sfuggono, perché fanno parte della nostra vita e sono indistinguibili da quelli di altre condizioni, e spesso vengono associati o attribuiti nella maggior parte dei casi ad altre malattie. Se è vero che l'ipertensione è spesso asintomatica, quando però i valori della pressione aumentano, il nostro corpo qualche segnale ce lo manda, bisogna naturalmente conoscerlo e quindi essere informati e pronti a coglierlo, ed è quello che ci aiuterà a fare lei, professore, insomma ci impresterà il suo occhio clinico. Ci sta? Grazie, piacere. Con grande piacere, sì. Spero che il mio occhio sia sufficiente, ma insomma, quantomeno diciamo è un occhio esperto da molti anni di frequentazione con questo nostro nemico che è l'ipertensione arteriosa. Allora, professore, ne abbiamo elencati alcuni dei sintomi. Quali sono gli altri segnali che potrebbero invitare il paziente, la persona? Ci rivolgiamo alle persone sane che non hanno per una serie di ragioni ancora misurato la loro pressione. Quali sono i segnali che potrebbero invitarlo a fare un saltino in farmacia o controllare la pressione dal medico con l'apparecchietto di casa, della mamma, della suocera? Sì, beh, in generale quelli che avete indicato sono quelli più comuni, naturalmente, perché riguardano prevalentemente gli organi bersaglio. Io direi, su questo ad esempio, privilegierei sicuramente questo aspetto della stanchezza inspiegabile, che mi sembra una osservazione molto corretta, perché molto spesso la pressione alta implica un consumo globale eccessivo da parte del nostro organismo per mantenere alti i valori di pressione, per cui capita molto spesso che alcuni dei nostri pazienti si accorgano di essere ipertensi perché a metà della giornata hanno già finito la benzina, si rendono conto di non essere più in grado di svolgere il lavoro con la stessa energia con la quale erano abituati a farlo. In generale, soprattutto a questo si associano problemi prevalentemente di tipo cefalalgico, che sono probabilmente i sintomi che con maggior frequenza si associano all'ipertensione arteriosa, alcune volte strane manifestazioni di tipo parestesico, per cui per momenti fugaci appare di non sentire perfettamente magari la sensibilità soprattutto delle estremità, ma questi sono in generale i sintomi principali. Alcune volte i pazienti descrivono un sintomo di tipo apparentemente psichico, cioè una strana sensazione di ansia inspiegabile, che è stata molto studiata, perché in questo caso è difficile stabilire se sia venuta prima l'uovo o la gallina, ma che in alcuni casi corrisponde esattamente, perché alcune delle sostanze che contribuiscono a mantenere più alta la pressione hanno anche un impatto sul nostro sistema nervoso centrale, quindi possono cambiare l'atteggiamento psichico. Professor Borghi, ai nostri ascoltatori abbiamo chiesto: se siete ipertesi, chiamateci per raccontarci non solo se riuscite a tenere sotto controllo la pressione, come fate, se state assumendo una terapia, ma quali sono i segnali che vi hanno portato a scoprire di essere ipertesi? È stato un controllo di routine dal proprio medico, invece avevate qualche disturbo e allora vi siete recati dal medico in farmacia, avete poi trovato una relazione? Professore, negli ultimi anni però qualcosa è cambiato. L'ipertensione, diciamo, ha ampliato un po' il suo target. Non è più solo un problema di chi ha superato gli ANTA, ma anche di chi dagli ANTA è ancora lontano. Insomma, professore, l'ipertensione non è un problema della mezza età, diciamo così. No. Beh, questo vale per la maggior parte dei fattori di rischio e vale maggiormente per l'ipertensione, perché in generale in passato i meccanismi che sostenevano l'aumento della pressione erano meccanismi legati, fra virgolette, all'invecchiamento fisiologico. Oggi ci sono invece anche quelli che noi chiamiamo meccanismi funzionali, cioè stimolazioni particolari che arrivano dall'esterno, che in parte sono legati ad aspetti di tipo alimentare, in parte sono legate al maggior peso, al maggior impatto che la nostra vita ha su di noi, e quindi possono fare aumentare i valori di pressione più rapidamente, quindi fare esprimere quel carattere genetico che è responsabile dell'ipertensione in anticipo rispetto al passato. Quindi sicuramente quello che lei dice è un'affermazione più che corretta. Oggi il problema della pressione dovrebbe essere affrontato anche per età, che una volta si consideravano del tutto indenni dal rischio di questa condizione. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare insieme al professor Borghi è questo: se sei giovane, mediamente stressato e la tua dieta è più vicino al modello fast food che a quello mediterraneo, misurati la pressione. 800 24 00 24 per i vostri interventi. E professor Borghi, anche noi, come ha fatto la pressione, allarghiamo un po' il nostro target e invitiamo a controllare la pressione anche chi dorme poco e chi vive o lavora in ambienti particolarmente rumorosi. Ci sono infatti delle ricerche che correlano la mancanza di sonno e l'esposizione a fonti rumorose a un aumento dei valori della pressione. Io partirei dall'insonnia, che è un problema dai grandi numeri e dalle ricadute, lo abbiamo detto tante volte, molto pesanti in termini di salute, di qualità di vita, ma anche di durata della vita. Secondo uno studio pubblicato su Hypertension, chi soffre di insonnia cronica, pensate, rischierebbe fino al 400% in più di sviluppare l'ipertensione. Ma professor Borghi, considerando il numero degli insonni, arriviamo a dei numeri davvero importanti. Sì, devo dire che i numeri potrebbero essere importanti. C'è da dire che quando lei esprime i suoi dati in termini percentuali, le percentuali sono qualche cosa che in generale ha più un impatto sensazionalistico che un impatto reale, perché bisogna sapere qual è la percentuale di partenza, cioè aumentare del 400% rispetto a 1 certamente è in termini numerici molto minore che aumentare del 10% rispetto a 1000 ad esempio. Certo. Quindi bisogna tenere conto di questo aspetto, quindi queste moltiplicazioni debbono tenere conto anche del denominatore, del numero di partenza, ma questo però è assolutamente vero. Cioè, in generale, il sonno è una fase della nostra vita durante la quale la pressione praticamente va a riposo, la pressione si riduce durante la notte, tutti i meccanismi che mantengono elevata la pressione, che sono i meccanismi dell'attenzione, recuperano rispetto a una giornata intensa per essere pronti il giorno successivo a farci risvegliare e riprendere la giornata con una certa attività. Ci sono casi nei quali ovviamente l'insonnia fa sì che resti sempre molto alto il nostro livello di vigilanza e conseguentemente restino più alti i valori di pressione, il che significa che il mattino successivo, invece che partire da valori di pressione perfettamente normali perché si sono normalizzati durante la notte, questi nostri pazienti partono da valori già francamente elevati, sui quali si sovrappone l'aumento progressivo della pressione standard normale durante la giornata, e quindi è chiaro che se ogni giorno si incrementa di una piccola tara derivata dal giorno precedente è molto più probabile arrivare in tempi più rapidi a un aumento patologico della pressione, quindi tutto questo ha una sua logica precisa ed è in parte legata anche a modificazioni piuttosto rilevanti del nostro stile di vita, che tendono a privilegiare molto spesso la vita notturna rispetto a quella diurna. A quella diurna. Noi siamo arrivati a proposito al nostro GR, certo. Subito dopo parleremo anche di rumore e ipertensione. Cuore e denari. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore, mi sono proprio una tiella vecchia. Sì. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì. Quanto è? Aspetti. Sentiamolo. Ai. Ai. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Meglio bassa che alta, siamo tornati insieme, parliamo di pressione arteriosa, un tema che ci sta particolarmente a cuore. Tutti noi sappiamo che l'ipertensione è un fattore di rischio per la nostra salute, può minacciare la salute del cuore, ma anche quella del cervello, che sono due organi uniti nella buona e nella cattiva sorte, e lentamente e inesorabilmente, se non diagnosticata e trattata, può interferire sul funzionamento di altri organi, compromettendoli molto seriamente. L'ipertensione contende al diabete la prima causa di insufficienza renale e dialisi, insomma è un fattore di rischio per il declino delle funzioni cognitive e l'insorgenza della demenza. Allora, perché lasciare che ci danneggi senza fare nulla per impedirglielo? Questo è il domandone di oggi, professor Borghi. No, noi non dobbiamo affatto lasciare che ci danneggi senza impedirlo, dobbiamo fare esattamente il contrario. Beh, innanzitutto volevo complimentarmi perché lei parla veramente come un libro stampato, ha fatto un riassunto della realtà che sta alla base del potenziale rischio dell'ipertensione, che credo non avrebbe sfigurato in un congresso di tipo scientifico, quindi complimenti. Ma al di là di quello, noi dobbiamo fare. Non me la faccia, non me la faccia diventare rossa, dottore, perché leva sulla pressione e poi dopo. L'ipertensione da emozione? È naturale, esiste. In generale la pressione si abbassa un pochino con l'emozione, però se un paziente ipertenso tende ad avere spesso una reazione paradossa, perché l'aumento della quantità di sangue che pompa in risposta all'emozione tende a far aumentare un pochino la pressione, anche lì c'è una duplicità di comportamento, però direi che è una cosa che esiste sicuramente. Ad esempio l'ipertensione da camice bianco, quella che tutti noi conosciamo, in pratica è una grande reazione emotiva, quindi è qualcosa legata comunque all'emozione. C'è più da camice bianco che da farmacista. Sicuramente, molto di più da camice bianco, perché il camice bianco ha il potere di dare un responso. Il farmacista non ha il potere, il farmacista è un elemento tecnico del rapporto tra il paziente e la sua ipertensione, dice un valore e su quel valore si può dedurre qualsiasi cosa. Il medico dice un valore, attribuisce un significato a quel valore e molto spesso emette una sentenza, per questo motivo viene molto più temuto dal paziente. Quindi il camice bianco del medico è diverso dal camice bianco del farmacista, non è il colore, è il contenuto del camice che è quello che modifica la reazione. È il contenuto, abbiamo parlato di camice bianco. fianco del medico che può far aumentare i livelli della nostra pressione, come prima del GR, il professor Borghi ci ha spiegato che la relazione tra perdita di sonno, insonnia e rischio di aumento dei valori pressori, ma c'è anche il rumore che in qualche modo può aumentare il rischio di ipertensione e di malattie cardiovascolari. Sono anni, professor Borghi, che la ricerca si occupa di questo problema, ma io non ho ben capito questa relazione, me la spiega? Sì, c'è un'enorme letteratura su questo argomento, una letteratura che era incominciata riportando correlazioni dirette tra il rumore di fondo, ad esempio, un rumore continuato e l'aumento della pressione, che oggi si è arricchita di informazioni su riviste prestigiose che dimostrano una correlazione anche più ampia tra rumore e lo sviluppo di alcune complicanze. Il problema è esattamente lo stesso traslato in termini al quale facevamo riferimento prima per il sonno, cioè il rumore continuo rappresenta uno stimolo irritativo che mantiene attivato una componente del nostro sistema nervoso centrale, non entro nel dettaglio perché ci porterebbe troppo lontano, ma questa componente del sistema nervoso centrale, quando stimolata, ha tra le sue possibili manifestazioni quella di far aumentare i valori di pressione arteriosa. Il problema è molto semplice, è un problema evoluzionistico. Quando noi sentiamo un rumore, questo rumore può essere indicativo di qualcosa che ci minaccia, certo. E quindi automaticamente ci prepariamo a difenderci, e uno degli elementi della reazione di difesa è l'aumento della pressione, che permette di far arrivare più sangue ai muscoli e quindi ci rende più scattanti, più agili, più in grado di difenderci dai pericoli. E quindi è chiaro che la spiegazione è assolutamente elementare, noi tentiamo di proteggere noi stessi attraverso questo tipo di meccanismo. E allora, professor Borghi, sa quanti ascoltatori si stanno candidando a fare una chiacchierata con lei all'800 24 00 24? Direi di cominciare ad accontentarvi, perché ci sono tante domande anche molto interessanti, cominciando con Raffaello, che abbiamo traghettato dalla prima parte di Cuore Denari. Raffaello da Roma, benvenuto. Grazie, buongiorno. Ci dica. Posso fare la domanda, certo, al professore? Allora, io vengo da un periodo molto stressante a livello emotivo e a seguito di una acufene ho scoperto di avere pressione alta. Ho iniziato da pochissimo un trattamento farmacologico e la mia domanda è se questa situazione di trattamento farmacologico possa essere reversibile nel tempo e se bere molto può aiutare a contenere la pressione alta. Grazie Raffaello. Professor Borghi, allora, cominciamo dalla fine perché è più facile. Bere non modifica minimamente i valori di pressione arteriosa. Se al signor Raffaello piace bere molto, nel senso che trova piacere a bere acqua fondamentalmente, credo l'ha specificato, fare... esatto, non è che la pressione si diluisce, dottore, no, professore. Signor Raffaello, mi avesse detto bere, avrei anche potuto entrare nel merito di che cosa, ma se dice bere molto, fatalmente io devo suggerire acqua. Molto si beve soltanto acqua. E in generale, quindi questo non è strettamente correlato all'aumento della pressione. Sulla reversibilità della pressione legata a una situazione stressante, la domanda è la risposta fatalmente complessa, perché io non ho una sfera di cristallo, ma devo dire che esistono situazioni nelle quali lo stress prolungato aumenta i valori di pressione arteriosa, e una volta rimossa la causa dello stress i valori pressori tendono a controllarsi meglio. Non è una regola assoluta, perché in alcuni casi, quando c'è una predisposizione genetica, questa situazione stressante finisce per essere soltanto l'interruttore che scatena un aumento della pressione stabile, quindi fa emergere in superficie in maniera clinica una predisposizione del paziente verso l'ipertensione, però teoricamente è possibile. Allora, continuiamo a sentire i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Dove vuoi andare, Deborah? Andrei a Padova adesso. Luca, benvenuto. Buongiorno Luca. Ci dica tutto. Professore, allora, io non ho, diciamo, avuto mai occasione di trovare, diciamo, la pressione alta durante i controlli. Parto da un intervento chirurgico fatto un anno fa, un'ablazione alle vene polmonari a causa di fibrillazione atriale. Da quell'intervento ho continuato a fare dei controlli regolari, la pressione è sempre stata a livelli accettabili, quindi 80-120. E sto seguendo un percorso alimentare che mi porta anche ad aver eliminato fattori possibili di ipertensione. Ciononostante, vivo anch'io, come precedente ascoltatore, un momento fortemente stressante anche a livello emotivo. Mi trovo spesso e volentieri di notte a non riuscire a dormire e avere un'ansia continua e una forte tensione. La domanda mia è, in questo momento, che durante i controlli effettivamente la mia pressione non è alta, però vivo questa questo stato di allerta continuo può in qualche modo influire, quindi cambiare un po' il quadro. Professor Borghi. Beh, fondamentalmente potrebbe, anche se devo dire che ci sono parecchie dimostrazioni che dimostrano come se non esista una predisposizione genetica, quindi una sorta di ereditarietà di base, di per sé le situazioni stressanti non sono in grado di indurre un aumento costante dei valori di pressione arteriosa, quindi lo sviluppo di ipertensione. Negli anni 60-70 era molto imperante questo concetto di un'ipotesi psicosomatica dell'ipertensione, per cui lo stress di per sé ne era la causa, ma poi ci si è resi conto che ci sono pazienti che hanno un'ansia che li divora e non sono ipertesi, hanno valori di pressione perfettamente normali perché non hanno attivi nessuno dei meccanismi che può scatenare ipertensione. Per cui il consiglio che io darei al nostro ascoltatore è di continuare a misurarsi sistematicamente i valori di pressione, ma se il suo destino non è indirizzato geneticamente verso l'ipertensione, è verosimile che una volta risolti i suoi conflitti dal punto di vista psicologico si ritrovi comunque con valori di pressione normali. 800 24 00 24, tra poco leggeremo anche i messaggi che arrivano al 349 238 6666. Abbiamo Silvano che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Professore, buongiorno anche a lei. Io ho una situazione un po' diversa da quello che ho sentito. Io non ho mai avuto sentori di ipertensione, una sera trovandomi da un amico che si controllava la pressione mi sono detto la controllo anch'io e a un certo punto questo amico mi ha detto sicuramente non funziona l'apparecchio perché avevo 90-95 anemia e 170-180 la massima. A che se l'era controllata da lui, a lui funzionava bene, non c'era problemi, mi consigliò di andare all'ospedale addirittura. Sono andata a casa con mia figlia, l'abbiamo ricontrollata, questa pressione era aumentata ancora di più, era arrivata a 110-120 la minima e quasi a 200 la massima, anche con mia figlia siamo andati al pronto soccorso, mi hanno imbucato subito dentro, mi hanno messo sul lettino, mi hanno controllato la pressione ed era ancora salita. Io, professore, mi creda, stavo bene. Non avevo nessun sentore, nessun sintomo. Mi ricordo che in vena mi hanno messo subito quel farmaco che fa urinare, non ricordo adesso come si chiama, e ho urinato più di una volta, la pressione a quel punto si è abbassata e da quel giorno ho scoperto di essere iperteso. Allora, grazie Silvano per la sua testimonianza che spiega un po' perché tante persone, pur sentendo sempre parlare, farsi raccomandare dal medico, televisione, media, tutti dicono la pressione va controllata, però se uno sta bene perché deve controllarla? Professor Borghi, invece la pressione alta lavora, danneggia silenziosamente anche se noi non lo avvertiamo. Ma nella maniera più assoluta, perché il grado di complicanza, quindi il rischio di sviluppare complicanza è legato ai valori di pressione arteriosa, non alla nostra percezione dei valori di pressione arteriosa, e quindi le due cose ovviamente vanno per conto proprio. Se uno ha valori di pressione più elevati del normale ha naturalmente un'elevata probabilità di complicanza. Se questo sia anche motivo di sintomi, quello naturalmente dipende in parte dalle caratteristiche, cioè dalla rapidità ad esempio con cui aumentano i valori di pressione arteriosa, dalla durata dell'ipertensione e anche da un diverso grado di sensibilità che ciascuno di noi ha nei confronti della percezione di se stesso. Certo. Anche la percezione del dolore, ad esempio, per fare un esempio grossolano, è una delle cose più soggettive che esistano al mondo. Se lo stesso tipo di trauma in alcuni casi determina un dolore insopportabile, in altri casi viene perfettamente tollerato dai pazienti o dai soggetti, quindi lo stesso succede per quello che riguarda l'ipertensione, mai fidarsi dei sintomi. Nella mia carriera ho visto fino a 280-150 fasi storiche di diastoliche in un paziente perfettamente asintomatico che era venuto in ambulatorio con le sue gambe e se n'è andato tranquillamente avendo una sua prescrizione senza problemi. Professor Borghi, riassumo molti messaggi, c'è una minima, c'è una massima, è più pericoloso che si alzi la massima o che si alzi la minima? Questi due valori che cosa ci raccontano? Ci raccontano sostanzialmente di due situazioni diverse, anche se oggi vengono lette in maniera integrata. Diciamo, per semplificare, la massima ci racconta della capacità del cuore di pompare e di spingere il sangue nelle arterie, la minima ci racconta della capacità delle arterie periferiche di immagazzinare questa energia che parte dal cuore e ridistribuirla a tutti gli organi a distanza. Quindi in pratica leggono due fasi diverse del ciclo della circolazione e conseguentemente hanno significato dato diverso. In generale l'aumento della pressione massima dice maggiormente dello sviluppo, dell'evoluzione verso la maggiore rigidità della parete arteriosa, quindi quella che si osserva prevalentemente legata alla età, quindi andando avanti con l'età tende ad aumentare sistematicamente la pressione massima, mentre per quello che riguarda la pressione minima dice di una riduzione della capacità di elasticità e quindi contribuisce in qualche modo a rendere più difficile l'arrivo del sangue agli organi periferici. Dicono due cose diverse, ma vanno tutte e due integrata. Importanti. Allora certo. Abbiamo parlato dello stress, abbiamo parlato della mancanza di sonno, del rumore. Un ascoltatore ci scrive, ma non si firma, ma consiglio personale. Sposatevi con la persona giusta. Da giovane ero iperteso, borderline. Dopo il matrimonio, pressione perfetta. Pensavo quindi che volesse raccontare l'amore. Il contrario, guarda, che lui stava benissimo e dopo il matrimonio la pressione si era alzata. Per fortuna che è andata a finire bene invece in questo caso. Stiamo verificando col professor Borghi che ci sono delle cose che sembrano non avere nulla a che fare con la pressione che invece la influenzano. Allora, professore, la metto un po' alla prova. Se le dicessi la parola tubo digerente, non mi dica che possiamo pensare anche che questo organo così distante possa essere collegato alla pressione arteriosa? Assolutamente sì, ci sono... c'è una evoluzione delle conoscenze molto importante in questi ultimi anni che dimostra come gli abitanti del nostro tubo digerente, del nostro intestino in particolare, quello che si chiama microbiota intestinale, sono in grado di metabolizzare alcune delle sostanze che noi mangiamo abitualmente, trasformandole in prodotti chimici intermedi che a loro volta possono arrivare ad alterare il funzionamento delle arterie. Ci sono lavori pubblicati su riviste straordinarie come capacità divulgativa che dimostrano una correlazione diretta tra un malfunzionamento di questo microbiota intestinale e l'aumento dei valori di pressione arteriosa. Le dirò di più, un collega del Nord Europa insieme ad altri hanno studiato a fondo questo aspetto e hanno trovato che la composizione di questi batteri intestinali che per noi sono indispensabili sembra essere sostanzialmente diversa a seconda della predisposizione verso lo sviluppo di ipertensione. Quindi su questo non mi trovo impreparato. No, non avevo dubbi, tra l'altro abbiamo fatto con Deborah una bella puntata insieme al professor sì, Vaira, certo. Proprio però non avevamo fatto la domanda sull'ipertensione, proprio sul microbiota intestinale che potete riascoltare. E Andrei nella provincia di Treviso. Esatto, andiamo da Luca. Tra l'altro, magari Nicoletta, hai visto ci sono anche tanti messaggi sul tema quando si può sospendere il trattamento farmacologico se i valori ritornano in una condizione di normalità. Te lo sollecito solamente perché io sto monitorando le mail e veramente ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono. Il professor Borghi ha risposto, sì, ma sicuramente torneremo su questo tema. Magari suggerite dall'intervento di Luca che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno, eccoci esatto, qua. Proprio questo volevo dire, nel senso che io sì, soffrivo di 54 anni, 160-90, ho cominciato a prendere delle pastiglie per 3-4 mesi e poi ho cominciato anche a fare 7-8 km di corsa e ho visto che la pressione si è abbassata, ho tolto le pastiglie e per 3-4 mesi tutto a posto. Adesso per problemi di lavoro, impegni di lavoro, ho dovuto interrompere un po' l'attività fisica e dopo circa un mese e mezzo, ho visto che la pressione è ritornata su. E allora io volevo sapere questo, se mi imponessi di continuare questa attività fisica, abbassando anche un po' il colesterolo, che non era altissimo, ma c'era qualcosina. Insomma, darsi un po' una controllatina. Esatto. È possibile recedere da questa pastiglietta della pressione, professor esatto. Borghi, che non so, ma non va giù. Quando ti dicono deve prendere la pastiglietta per la pressione, bisognerebbe fare un'indagine. Che cosa modifica, no? Che cosa scatta dentro la persona? Che cosa scatta è abbastanza semplice da dirlo, la perdita della propria invulnerabilità. Ciascuno di noi nasce credendo di essere invulnerabile, di essere il primo di una nuova stirpe di immortali, è una cosa normale, per cui naturalmente quando uno prescrive un farmaco e questo farmaco va a correggere qualcosa di patologico, ai. È il momento nel quale noi perdiamo la nostra invulnerabilità e quindi tendiamo a procrastinarla il più lontano possibile. Certo. È per quello che ovviamente c'è una certa ritrosia, perché se lei offre lo stesso tipo di compressa, quindi esattamente fatta allo stesso modo, ma dice qua dentro non c'è un farmaco, c'è un prodotto vegetale, i nutraceutici, queste cose che adesso hanno una certa presa, lei lei trova dall'altra parte un'accettazione dell'assunzione giornaliera di questa cosa che è circa il doppio rispetto a un farmaco antipertensivo. Quindi non è la compressa, è il significato remoto di quanto è contenuto nella compressa rispetto all'invulnerabilità del soggetto che conta. Quindi la cosa può essere letta assolutamente da questo punto di vista. Ma per quanto riguarda la sospensione, molti ascoltatori ce lo stanno scrivendo, questa sospensione spesso fai da te in 30 secondi? Sì, no, la sospensione non dovrebbe essere praticata in maniera fai da te, perché il nostro ascoltatore ha fatto un discorso eccellente e lo ringrazio, ha detto che ha fatto qualche cosa in cambio, ha fatto attività fisica, l'attività fisica è un vasodilattatore, quindi lui ha vicariato l'effetto del farmaco con un qualche cosa che nello suo stile di vita che lo ha sostituito, ma in pratica se non tutti sono in grado di fare questo non sono autorizzati a modificare arbitrariamente la terapia, perché rischiano di trovarsi con valori di pressione molto più elevati. Professor Borghi, grazie per essere stato con noi, per la sua chiarezza. Torni presto a trovarci, magari in studio, e noi saremo felici. Perché ce lo sta promettendo da un bel po' di tempo. Lo farò con grande piacere, perché anch'io sono molto curioso di vedere il mondo che vi circonda, perché io vi guardo sempre qua attraverso il video del mio computer, conosco il vostro aspetto fisico, ma vi vorrei vedere al lavoro. Bene, siamo qui a sua totale disposizione. Andremo dal parrucchiere. Ottimo. A domani, grazie. A domani, buona giornata. Cuore e denari.